Direi che il festival quest'anno si apre con una giornata dedicata alle intersezioni, in particolare intersezioni genere, razza e classe, con due testi femministi e antirazzisti, possiamo definirli, ma con due prospettive diverse e specifiche. Alle 18 presentiamo Femonazionalismo, il razzismo nel nome delle donne, che ho avuto l'opportunità di tradurre insieme a Marta Paniguel, testo di Sara Farris, della sociologa femminista ormai conosciuta a livello internazionale, Sara Farris, che ha proprio coniato questo concetto di cui avevamo veramente bisogno, femonazionalismo, con cui Sara ci spiega la crescita delle nuove destre nazionaliste di questo presente, come si sono reinventate la destra di Matteo Salvini, della Le Pen in Francia, del PSD in Olanda, strumentalizzando alcuni dei temi storicamente legati al femminismo, ovvero strumentalizzando i diritti delle donne. Facendo questa analisi viene fuori come in Europa in realtà il razzismo è particolarmente rivolto dalle destre nazionaliste contro gli uomini migranti, perché sono gli uomini migranti a rubarci il lavoro, secondo la retorica nazionalista, mentre sulle donne migranti c'è una retorica diversa, cioè quella delle salvare da queste presunte culture retrive. E perché? Sara lo analizza a fondo, perché in Europa c'è una cosiddetta crisi della cura, perché in Europa, l'Europa in cui le donne si sono emancipate dal lavoro di cura, rivendicando di fare ingresso nel mondo del lavoro, le chi resta a fare appunto le pulizie a casa, a fare le badanti agli anziani, a fare le lavoratrici delle pulizie in uffici, università e così via, sono una categoria lavorativa specifica assegnata alle donne e in particolare alle donne migranti in Europa a condizioni anche di molto sfruttamento. Ecco, femonazionalismo è un concetto da cui partiamo per analizzare da un punto di vista delle nuove ideologie, ma anche della struttura economica che l'Europa, sempre che vira sempre più a destra, ma che in realtà alle sue basi è un progetto neoliberale, si sta sviluppando sotto i nostri occhi. Parlando di destre, la questione femminile interessa solo appunto nella chiave della strumentalizzazione, perché poi se vediamo politiche e proposte politiche che vengono avanzate, alle donne è riservato sempre un ruolo subalterno nella società. Sì, viene comunque assegnato alle donne, migranti e non, uno specifico settore economico, che è di fatto quello appunto dei servizi, di quella che Sara Farris analizza come riproduzione sociale. Resta comunque una condizione subalterna di tutte le donne, eppure all'interno di questo appunto soggetto donne, Sara è tra le femministe che più mette sul tavolo la necessità di non creare un soggetto omogeneo donne, perché all'intersezione appunto di genere, razza e classe le condizioni sono specifiche. E guardarlo da un punto di vista proprio di analisi anche economica ci permette di comprenderlo molto chiaramente. Le donne razzializzate, le donne musulmane anche, che sono razzializzate per il fatto di essere musulmane, di portare un velo e quindi di essere riconoscibili per questo, e le donne migranti in generale in Europa subiscono una condizione specifica in quanto donne, ma anche in quanto non bianche, non europee, e quindi impossibilitate a diventare, in una logica nazionalista, quelle che Sara Farris definisce le produttrici della nazione, ovvero è questo il ruolo che invece viene assegnato alle donne cosiddette native. E sono tutti questi elementi chiaramente che vengono messi in campo di analisi proprio per forgiare strumenti per passare al contrattacco, chiaramente. Ecco, contrattacco quest'anno è contraddistinto da una modalità di presentazione, cioè non è semplicemente la presentazione di un libro, ma è un confronto. E infatti in questo primo appuntamento, che si terrà alle ore 18 di venerdì, ci sarai tu, ci sarà Marta Paniguel, che insieme a te ha tradotto appunto il libro che è in uscita il 28 novembre, ci sarà il collettivo Mujeres Libres e Sabrina Marchetti, che è una sociologa femminista. Sì, che ha collaborato con Sara, che lavora anche, come dire, si occupa di questi temi insieme a Sara anche per la rivista di Giacobbe in Italia. Poi la serata prosegue con una cena di autofinanziamento e alle 20:30 ci sarà un'altra presentazione che è anche un reading. Esattamente, e torno sul palco, questa volta da autrice di un'antologia che ha visto esprimersi 11 autrici afroitaliane in un lavoro appunto corale curato dai Giabascego e dal titolo Future, il domani narrato dalle voci di oggi, edito da FQ. Giabascego, che tra l'altro ci ha accompagnato in questi anni di contrattacco anche a Bologna, quest'anno ci ha proposto questo lavoro collettaneo per far emergere un punto di vista sull'Italia, sull'italianità, anche sulla condizione delle donne in questo paese, che è meno sotto i riflettori, meno ascoltato, ed è quello delle italiane considerate meno italiane perché portano nella propria storia, nella propria traiettoria di vita anche un passato migratorio, perché sono state adottate, perché sono migrate con i genitori, oppure perché sono nate in Italia da genitori immigrati. Il club ci ha radunato a noi 11, giovani e meno giovani, chiedendoci appunto di raccontarci, di esprimere che cosa fosse per noi il futuro. Ci ha messo davanti a una richiesta per niente semplice, perché in questo presente di precarietà, di condizioni al margine, fare lo sforzo proprio immaginativo di creare un futuro non è stato affatto facile, ma ci ha invece, come dire, permesso un atto molto liberatorio, un atto di espressione, di incontro, perché queste 11 che siamo, che abbiamo scritto in questa antologia, non ci conoscevamo prima, non tra tutte, anzi qualcuna magari sì, ma non ci conoscevamo, e incontrarci in questo testo davvero è qualcosa che ci sta davvero cambiando proprio la vita, perché è stato per noi un'occasione di fare rete, di poter dire è successo anche a me, ma scoprire di non essere sole, e poter anche mettere in discussione, a partire dalle nostre esperienze, le nostre vite, quello che è invece appunto il concetto dominante in questo paese di italianità, perché noi prima di quella parola italiano ci mettiamo il prefisso afro, e qualcosa a quel punto spicchiola in quest'idea appunto delle donne bianche, italiane, cristiane, che qualcuno va rivendicando a gran voce di questi tempi. La serata si concluderà poi con un monologo, uno spettacolo teatrale. Sì, sul palco c'è Filo Sottile, che ormai sta girando l'Italia con questo suo spettacolo, ancora diciamo una narrazione a partire da sé, di cui io sono la prima curiosa, come dire, che attende la performance, che mette in campo ancora una volta le questioni di genere, le transizioni anche di genere, e ne fa un discorso profondamente politico a partire da sé.